I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Che piccolo e bello sia ormai uno slogan passatista e addirittura nocivo per l'evoluzione dell'economia italiana è noto. Meno noto è che le piccole imprese italiane stanno facendo sforzi nuovi per aumentare il loro patrimonio e per creare le basi per una crescita dimensionale che le renda più competitive in Europa e non solo. I dati pubblicati oggi da un'inchiesta del Sole 24 Ore lunedì lo dimostrano. Se si considerano i numeri elaborati da Key Finance, una società di borsa italiana specializzata nelle rilevazioni sull'equity, si scopre che su un campione di 31.000 imprese con un fatturato nell'ordine di 5 milioni di euro, la patrimonializzazione è aumentata in 3 anni di 56,5 miliardi. Non siamo ancora alla soglia prospettata dalla Banca d'Italia di 200 miliardi per dare la giusta robustezza finanziaria al sistema delle PMI italiane, ma è pur sempre un quarto di strada già percorsa. È anche un primo risultato dell'innovazione fiscale che va sotto il nome di ACE, che ha detassato le forme di capitalizzazione delle imprese e della diffusione dei cosiddetti PIR, i piani individuali di risparmio, una nuova forma di raccolta del risparmio indirizzato appunto alle imprese più innovative e dinamiche e non di grandi dimensioni. È un primo tentativo quindi di cambiare pelle al capitalismo bancocentrico del nostro paese e sta funzionando. Basti pensare ad esempio che in un solo mese e mezzo di attività i PIR hanno già raccolto oltre 1,5 miliardi, cosa che fa sperare che in un anno si possa arrivare a una cifra di una decina di miliardi, ed è tutto ossigeno finanziario destinato alle PMI. La crescita, la mitica crescita, si fa anche così. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Tempi duri per le compagnie aeree e non solo per l'Italia, un po' in tutto il mondo. Causa rischio terrorismo ed altre tensioni geopolitiche, il traffico aereo non solo è sceso, ma soprattutto sono esplosi i costi. Quelli che hanno affondato l'Italia, sostanzialmente, ma quelli che stanno mettendo in ginocchio altre compagnie aeree, a cominciare per esempio dalla Cathay Pacific, il colosso del Pacifico che ha tagliato il 25% dei dipendenti, ma non cominciando dai piloti e dagli assistenti di volo, ma addirittura dai dirigenti, accusandoli sostanzialmente di non aver saputo tenere sotto controllo le dinamiche dei costi. Ma al di là dei casi specifici, un punto è chiaro: per la nostra compagnia aerea trovare un partner in questo momento sarà molto difficile, soprattutto per un motivo. Nessuno lo vuole ammettere, ma dire che arriverà un'iniezione di 600 milioni di euro dal governo per rimettere in sicurezza, ma che poi non basteranno, farà sì che tutti i possibili pretendenti aspetteranno che finiranno quei soldi per poter tornare a trattare. Addirittura in America c'è chi dice che potrebbero essere interessati ad acquistare semplicemente il marchio, chiudendo tutto il resto. Comunque sia, una cosa è certa: alla vigilia dell'estate l'Italia è nuovamente nella confusione sul traffico aereo, il momento in cui tutti i cieli del traffico aereo sono molto confusi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.